Since I Don't Have You. Questi erano gli Skyliners. Bene, bene, sentimentaloni, adesso potete staccarvi, perché se non ci riesco io con le mie parole, ci riuscirà lui con le sue chitarre. Ladies and gentlemen, sta arrivando. È lui, è lui, Dave Alvin. My darling Romeo. Well, there's a big fussy blonde in Oklahoma City, sitting in front of me trying to make herself pretty. 6 feet meeting Romeo at 8:30. What a Romeo left town on a southbound freight. Nobody says Romeo escaped. Questo è Dave Alvin. Sì, lui, il fratello minore, proprio lui, di Phil Alvin, quello dei Blasters. E insomma, questa è stata proprio una botta di quelle, è vero? Aveva già lasciato i Blasters quando ha inciso questa Romeo Escape, siamo negli anni 90. La domanda che arriva alle 2:35 è questa. Che arriva al 335-100-7777. Ma anche voi DJ in questi momenti scuotete la testa a ritmo? No, perché sennò picchiamo contro il microfono. Sto cercando le cassettine per registrarti, grandissimo Claudia. Claudia, ti abbraccio e ti mando Suspicion. Certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Darling, if you love me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive all these foolish fears out of my mind. How I hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, 'cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why torture me? Suspicion, Suspicion, grande canzone degli anni 60, da parte di Elvis. The King, lo abbiamo ascoltato davvero poco, troppo poco, ma in realtà devo dire che ci sono altri nomi classici che non hanno ancora trovato spazio. 8 ore sembrano tante, ma non lo sono. Allora, qualcuno dice che è appena uscito dal concerto della Rock FM All Star Band e ancora non riesce a riprendersi. Grande esperienza, grandi complimenti per la banda dei quattro, come si autodefiniscono quelli là, i nostri amici, i miei colleghi cialtroni. Non capisco perché, ma noi siamo i cialtroni del rock and roll. Loro senza saperlo sono dei grandi, se non dal punto di vista tecnico, sicuramente dal punto di vista dell'energia, della passione, e lo sapete anche voi che siete andati ad ascoltarli. In tanti tra gli ascoltatori di Rock FM se li sono goduti in questi anni, e questo che è appena finito è l'ultimo concerto con quel nome. Stanno pensando che cosa fare nel loro da grandi, cioè, nel senso che cosa faranno nel futuro, se il nome va cambiato, questo è poco ma sicuro, ma può essere che vadano avanti, anzi io sarebbe assurdo se le cose non andassero così. Allora, ancora una canzone, vedo dall'altra parte una Gretsch che scalpita, qualcuno che rolla le bacchette, un contrabbasso che è pronto per essere pulsato, e ci ascoltiamo ancora una canzone, davvero l'ultima, e poi daremo spazio al trio che nonostante si siano esibiti da un'altra parte stasera, nonostante siano le 3:15, per voi e solo per voi, cari ascoltatori di Rock FM, sono qui più grintosi che mai. Change the way I look, e torniamo ancora. Fortunatamente mi sono ricordato che ho i dischi dei BR549 e ogni tanto una capatina su questa band di Nashville devo assolutamente farla. La band è un quintetto, si divide tra hillbilly e rockabilly, con un gusto come davvero raro. Quindi sono i BR549 con Change the Way I Look. Intertwined. Now I'm knocking backstairs and coffee alone. I'm gonna change the way I look. Loro, proprio loro, ancora una volta a Good Rockin' Tonight questa sera. No, anzi, stamattina. Allora, siete pronti? Siete pronti? Benvenuti, benvenuti ai Backseat Boogie Trio. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Buonanotte. Come state? Come state? Alla grande, alla grande. Bene, bene, bene. Da dove arriva questo trio? Giusto. Allora, questo trio arriva dalla Brianza. La carta d'identità. Arriva dalla Brianza, Texas. Fantastico. In Brianza si cresce con pane, burro e rock and roll. Assolutamente. Normale. Tutti quanti. Sentite, quanti dischi avete inciso fino adesso? Guarda, quello che hai in mano, però. Okay, perfetto. Però tanti anni di strada, questo c'è da dirle. Questa è la cosa importante. I dischi, tanto adesso li incidi, ma non li vendi. Che ti Sì, ma poi chi li fa più? Ma non scherziamo. Dobbiamo fare un file adesso. Esatto. Allora, lo state già facendo, perché tutto quello che stiamo vivendo è registrato, ok? Alla grande, bene, molto bene. Quindi attenti a voi, perché potrebbe essere l'inizio, ma anche la fine. La fine, okay. Esatto. Bene, è in studio con il Faulisi e con tutti gli ascoltatori di Rock FM a Good Rockin' Tonight, i Backseat Boogie Trio. Let's go! One, two, three. So I can go home. Throw my books on the table, pick up the telephone. Hello, baby, let's get some going. Head down to the back store to get a soda, pop soda, nickel in the jukebox. Then we start to rock. Spook up, baby, gonna tell you some news. She don't look good in the baby doll shoes. But it's 1, 2, pull up my shoes. A hip poke it out on the floor. A 5, 6, come get your kicks down the corner of a Lincoln and a 46. Hey! My books on the table, pick up a telephone. Hello, baby, let's get some coin. Head down to the drugstore to get a soda pop. Throw a nickel in the jukebox, then we start to rock. Spook out, baby, gonna tell you some news. She'll look good in them baby doll shoes. Well, it's 1, 2, pull up my shoes. I said, poke it out on the floor. 5, 6, come get your kicks down the corner of a Lincoln and a 46. Hey! Off my shoes, a big poke it out on the floor. 5, 6, come get your kicks down the corner of a Lincoln and a 46. You gotta move, start rocking, baby. I rock you, rock baby, rocking out all night. Rock all night, just wait to see. Hey! Backseat Boogie Trio a Good Rockin' Tonight. Hey, come butta? Bene. Sento un pochino. Molto caldo l'ambiente. Sento, esatto, forse mi tolgo le cuffie meglio. Bene, dopo quando suoni magari te le togli. Nessun problema. Allora, da quando esiste questa band? Allora, la band, il trio in realtà esiste da un anno in pratica. Giusto come il gruppo che vi ha preceduto. Allora, esatto. È un grande Welcome, Extend Innovation, a un'altra formazione di quelle giovani che si affacciano nel generosissimo panorama rockabilly. Sì, grazie per il giovane, 32 anni, sono contento di sentirmi dire giovane. Oh, Rockin' Bonnie manda i messaggi, Rockin' Bonnie all'ascolto, un bacio anche a te Rockin' Bonnie. Abbiamo avuto diverse formazioni qua di rock and roll e rockabilly in questi anni e il più delle volte si trattava di veterani o musicisti che comunque già da molto calcavano i palchi italiani e non solo. Con il gruppo che vi ha preceduti e anche con voi invece abbiamo delle nuove leve, insomma, acqua fresca che sotto il mulino, birra fresca, birra, diciamo, fresca. Questo è bello, come dire, garantisce continuità a quella che sta diventando ormai la tradizione italiana. Negli anni 70 sono arrivati, primi anni 80, i primi gruppi rockabilly, e c'è stato poi un po' di crisi, adesso stanno tornando. Sì, un po', dici? È vero. Sì, anche noi, diciamo, insieme agli Sugar Ray Dogs stiamo un po' cominciando. E diciamo stiamo ricominciando, nel senso che, come ti ripeto, un po' tutti già suonavamo da ormai un 10-15 anni abbondanti, sì, eccetera. Il trio esiste da un anno. Insieme ai Sugar Ray Dogs, a livello un po' così parallelo, stiamo cominciando a beccare un po' di serate in giro, cercare di organizzare raduni anche con le macchine, insomma. Sì, ne abbiamo parlato poco, esatto, fa di quella serata che avrete live di Trezzo sul Lade. Il 6 giugno, esatto. È ben gratificante. Direi di sì, nel giro di un anno già abbiamo fatto Bloom, abbiamo fatto insomma posti abbastanza grossi che non sempre capita di palchi da affrontare. Certo. E in questi raduni cerchiamo il più possibile, insomma, di un po' di non solo andare lì a suonare, ma cercare di, come dire, portare anche un po' tutto il resto, tutta la cultura che ci sta attorno a questo discorso. Certo. Ecco. Senti, il background qual è? Arrivate da dove? Ma io personalmente sono cresciuto a Pane Springsteen, Pane Dylan da piccolo, e di conseguenza. Quindi suoni tradizionali, rock classico? Sì, diciamo sì, AC/DC, Bob Dylan, musica americana, rock and roll, eccetera. La stessa cosa vale per Pedro, la stessa cosa vale con Nicola, il batterista, che viene più da rhythm and blues, anche con una segreta passione per il reggae, neanche tanto segreta. però stasera sì. Parte con reggae, gli seguo le mani. Mai. Quali sono i riferimenti da quando avete cominciato a darvi al rock and roll e al rockabilly? Ma come dire, i soliti nomi, cioè partiti tutti con Elvis, fino agli Stray Cats, fino a Reverend. L'approccio comunque è neo rockabilly il vostro? Sì, abbastanza, sì, sì. Cerchiamo, cioè voglio dire, la cosa viene molto spontanea, nel senso non stiamo lì a dire facciamo rockabilly, facciamo neo rockabilly. Sì, sì. Facciamo quello che ci sentiamo di fare, punto. Esatto, attento a non mettere il distorsore, attento. Sugar Ray Dogs si presentano con esclusivamente brani originali. Voi che fate? No, noi per ora abbiamo soltanto pezzi così, vecchie perle, diciamo, tra rock and roll e hillbilly. E stiamo lavorando a un repertorio nostro. Per ora abbiamo inciso un solo pezzo, ma ne abbiamo un po'. Però stasera preferirei non presentarli perché vorrei giocare la carta. Work in progress. Va bene, cosa ci fate sentire adesso? Allora, adesso facciamo un pezzo di Dale Hawkins che si intitola Little Pig. Vai. 1, 2, 3, ho ho, bam, chin, chin, chin. Well, I'm the wolf and I wanna come in. Ho ho, bam, chin, chin, chin. Well, I'm the wolf and I wanna come in. Well, I'm huffing up, huffing up, huffing up, huffing up, blow your house in. Well, I'm huffing up, huffing up, huffing up, huffing up, blow your house in. Ho ho, bam, chin, chin, chin. Well, I'm the wolf and I wanna come in. Ho ho, bam, chin, chin, chin. I'm the wolf and I wanna come in. Well, I open up, open up, open up, open up, blow your house in. Well, I open up, open up, open up, open up, blow your house in. Well, you can build it here, build it there. Look, little guy, it will get you nowhere. I'm gonna get you just the way they see. Look, little pig, you belong to me. Oh, oh, by my chin, chin, chin. Well, I'm the wolf and I wanna come in. Oh, oh, by my chin, chin, chin. Open up, open up, open up, open up, blow your house in. Well, open up, open up, open up, open up, blow your house in. Well, pig, you belong to me. Oh ho, buy my chain, chain, chain. But I'm the wolf and I wanna come in. Oh ho, buy my chain, chain, chain. But I'm the wolf and I wanna come in. Well, I up and up, up and up and up, up and I blow your house in. Well, I up and up, up and up and up, up and I blow your house in. House in a little pig, a little pig. Blow your house in a little pig, a little pig. Blow your house in a little pig, a little pig. Blow your house in a little pig, a little pig. Well, I'm up and I'm up and I'm up and I'm up and I blow your house in. We're hoping I'm up and I'm up and I'm up and I blow your house in. Hey! That's it, Boogie Trio! Proprio così, Backseat Boogie Trio. Backseat Boogie Trio. Bene, bene, bene. Che grinta, ragazzi. Fa caldo da quella parte? No, sta bene, dai. Beh, la birra è finita, però c'è ancora dell'ottima acqua fresca. Se volete farvi un giro e tornare fra 10 minuti, datemi il tempo di mandare in onda una canzone e voglio dedicarla a Rockin' Bonnie. Siccome questa ragazza ha un debole per Janis Martin e Janis Martin aveva un debole per Elvis, e forse è anche per questo che l'hanno chiamata The Female Elvis, voglio farvi ascoltare da Janis Martin una canzone del 1956 intitolata My Boy Elvis, e la dedico a tutti quelli che stanno uscendo e sono appena usciti e sono sulla strada per casa dal concerto della Rock FM All Star Band, che stanno chiamando qui, stanno mandando messaggi di grande soddisfazione. Grandi saluti verso la rockfamily.it e un grande abbraccio a tutti voi. Via con Janis Martin. Everybody come on down, the man with the guitar just hit town. Takes off like a rocket, there he goes, rocking from his head down to his toes. My boy Elvis, real rock. My boy Elvis, real rock. With his bambling, who Elvis sing to me. Heartbreak Hotel, blue suede shoes, he walks away with all my blues. Take my troubles, take my pain, load them on that mystery train. My boy Elvis, real rock. My boy Elvis, real rock. Whiz bambling, who ever sing to me. Close to my jukebox king, my boy Elvis, real rock. My boy Elvis, real rock. With family, whoever sing for me. All the teeners stomp and shout when they open the curtain and he walks out. You know the one he's dreaming of, called the guy. Tonight, well, there's a guy in town that you might know. he's a crazy kid. The cat can't go, that cat called Domino. A Domino, a Domino. Oh, well, the girls all think he's a real grown guy. They all flip when he walks by. Alongside Burns and a cool white shoes. He's ready to go, will never sing some blues. The cat can't go, the cat called Domino. Cos'è? Ok. Oh. Bene, ce l'abbiamo fatta. La sigla non voleva partire. Come state? Sono le tre. Sono ancora soltanto le tre. Mancano 5 ore alle 8 del mattino, quindi l'alba è lontana, alle 8 del mattino ancora più in là. Non ho ancora ricevuto la promessa da ascoltatori per un caffè caldo che mi arrivi verso le 7 e mezza, 8. Vorrei sperare di poter fare colazione con un ascoltatore qui, magari non sarebbe affatto male. Allora, questi erano in due. Slim Jim Phantom, che gli appassionati di rock and roll e rockabilly, il neo rockabilly, conoscono bene perché pare essere componente di quel grande trio degli Stray Cats, e ancora Daryl Hyman, che abbiamo ascoltato questa sera, ma l'abbiamo ascoltato con uno della famiglia Burnett. Questa era una canzone intitolata Domino che chi segue la storia del rock and roll ricorderà benissimo, perché esce dal repertorio di Roy Orbison, il grande Roy Orbison, quel signore dall'aspetto un po' malinconico che avrà avuto buoni motivi per esserlo, tant'è che ha avuto una vita davvero molto sfortunata, con drammi familiari pazzeschi, e ha inciso, ha avuto un rilancio verso la fine della sua carriera, verso la fine della sua vita, con il grande supporto dei grandi del rock, e nel 1985 incideva delle bellissime canzoni, compresa una Claudette che è davvero strepitosa. Ce la vogliamo ascoltare? Roy Orbison. To death, Claudette. Pretty little pet, Claudette. Never make me fret, Claudette. She's the greatest little girl that I've ever met. Got the best loving that I'll ever get from Claudette. Whoa, whoa, Claudette. Yeah, yeah, Claudette. good night, I'll holler more, more, more. Claudette, Claudette era Roy Orbison. Roy Orbison, Roy Orbison. Che bella voce, che bella voce. Roy Orbison scomparso, ci ha lasciato già da diversi anni, non sono ancora tanti quelli still standing, uno dei pochi è Jerry Lee Lewis, che ascolteremo fra poco, lo abbiamo già ascoltato questa sera, ma sarà un piacere riascoltarlo in quella incisione strepitosa che ha effettuato un anno fa, un anno e mezzo fa, e che vi proporrò fra pochissimi minuti. Allora, Paola chiede, prima, scusa se Paola non ti ho risposto prima, ma semplicemente mi era sfuggito, arrivano dozzine, veramente, credetemi, arrivano tantissimi messaggi, io sono costernato per questo e tocco il cielo con un dito. 335-100-7777, Paola chiede quella bellissima canzone di Ray Charles che ho mandato in onda recentemente, quindi non stasera, stasera ho mandato ora a 6. Forse si riferisce a Hit the Road Jack, forse sarà quella, chi lo sa, chi lo sa. Comunque sia, se mi spieghi meglio cosa intendi, sicuramente Paola ti verrò incontro. C'è un altro messaggio, ok, fatemi vedere. Ho appena urlato Good Rockin' Tonight su Radio Rock FM, che figata! Bello anche questo. Che dici? Se parto ora dalle campagne di Lari, in provincia di Pisa, con un termos, arriva caldo da te, Serena. Ma lo bevo anche freddo, guarda. E ce la puoi fare. Allora, poi qualcun altro che... Oh, altri complimenti. Ma quanto cuore ci metti nel tuo lavoro, Faulisi? Esce passione e sudore vero dalle mie casse. Ti voglio bene, questo è Fabrizio, PS, gli allevatori di polli stanno registrando anche stasera. Fa riferimento a dei simpatici signori allevatori di polli che nella trasmissione notturna di un paio di settimane fa hanno comunicato che, oltre che di essere allevatori di polli, che avevano registrato, che stavano registrando tutta l'intera trasmissione. Ma quanto cuore ci metto io nel lavoro? Ma non più del cuore che ci avete dimostrato voi in questi 18 anni, davvero, non lo dico così, lo dico perché è vero, se riesce vera passione, vero sudore dalle tue casse e altrettanta passione esce dai messaggi che ci mandate, particolarmente in questo periodo perché le circostanze sono quelle che sono. Ma è stato così per 18 anni e questa è stata la vera benzina e non sono davvero frasi di circostanza. Questo la voglio dedicare a me e a voi insieme. È una canzone che io amo particolarmente, che sicuramente in qualche maniera toccherà anche voi, perché è una canzone che conoscete, che amate, che avete sentito. È una di quelle canzoni che si ascoltano mille volte e la millesima volta continua a lasciare il desiderio di essere riascoltata. Sto parlando di Stand By Me di Ben King, una canzone che mi fa ricordare un'altra cosa, il film Stand By Me, che è un film davvero meraviglioso, tratto da una novella di Stephen King. Guardate un po' le coincidenze. Stephen King aveva scritto questo libro intitolato The Body, il corpo, una novella che poi è diventato film. gran bel film. Chi non l'avesse mai visto, ecco, è invitato dal Faulisi a farlo. Questo è Ben King, Stand By Me, per voi, per voi, per voi. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by. Ragazzi, con questa però si intristisce un pochettino, che dite? Si torna al rock and roll? E vogliamo tornarci al rock and roll con i Blasters, quei Blasters che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione. Questi Blasters li troviamo più recenti, più anziani, ma sempre grintosi. Sentiteli un po', se il Faulisi non ha ragione. Sentiteli un po' con Rebound! Yes, I lost my stuff. You're the only one I found, and I love. Come vi dicevo, questi sono i Blasters degli anni 2000. Eh sì, Rebound, che anche questa è, si tratta di una cover di un vecchio, di una vecchia canzone. I messaggi continuano ad arrivare, io mi diverto a leggerli perché sono davvero strepitosi, strepitosi. Allora, un saluto, un carissimo saluto a Francesca, la cowgirl, che abbraccio e abbraccio e abbraccio così almeno quanto abbraccio Roberta, che dice: Dear, verrei di corsa a Milano se non fosse che devo risparmiare per salire il 31. Che tenera, Roberta. Per fortuna sto registrando sul PC dalle, 20, dalle 2.45 come gli allevapolli. Non so farti ancora sentirglielo. Ok, Roberta, un abbraccio anche a te, ci incontreremo sicuramente il 31. Poi qualcuno propone: Mauri, ma senti un po', se, e se si partisse da Genova per fare colazione insieme, noi ce la possiamo fare, il tempo non manca, serve solo qualche indicazione stradale. Allora, vai sempre dritto, esci dalla, dall'autostrada, vai verso il centro, zona stazione centrale, via Locatelli 1, io esco alle 8 e andiamo a berci un caffè assieme. Non sto scherzando, mi farebbe davvero piacere. E ora che ne pensate di un po' di rhythm and blues, primi anni 60, early 60s con i Flares. Aha, Foot Stomping. Boom, boom, boom, boom. Everybody young and old, yeah. Learn how to rock and roll, yeah. Listen, here's something new. Stomping, Foot Stomping, fa parte della colonna sonora del film Hairspray. Mi riferisco al vecchio film Hairspray, perché ne è stato poi è stato realizzato nuovamente. Qui siamo negli anni '80. Foot Stomping era un brano dei primi anni '60 dei Flair. E siccome io so, che voi amate il rhythm and blues dei primi anni 60, e siccome io so che voi amate particolarmente le canzoni passionali, quelle che esprimono sesso da tutti i pori, allora beccatevi questa. Ah, baby, you got what it takes. Well, now it takes more than a robin to make the weather. Takes because it takes more than an effort to stay away from you. It takes more than a lifetime to prove that I'll be true. But it takes somebody special to make you me say I do. Oh yeah. And baby, hey, you've got what it takes. You got what it takes, you got what it takes, davvero, davvero, davvero. Grande musica anche questa. E qui eravamo con Brooke Benton e Dinah Washington, mica due a caso. Allora, pare che stiano partendo da Genova per venire a fare colazione col Faulisi. Bene, bene, bene. Almeno avrò compagnia al bar. Fra 5, 3, 4 ore e 45 minuti, quanto ci rimane? E quanto tempo ci rimane, ragazzi? Che nottata, che nottata. Questa è Rock FM, questa è Rock FM, questa è una Good Rocking Tonight che sembra infinita, ma non lo è. 335-100-7777 è il numero di sms che dovete comporre per parlare con me. Ma volendo potete anche chiamare se avete un urlo da lanciare, se volete urlare la vostra, il Good Rocking Tonight, fatelo 0267067090032. E siccome c'è chi fa i viaggi per venire qui a trovarci, ci verranno a trovare in tanti il 31, qualcuno parte per venire a fare colazione con me, allora voglio rassicurarvi che anche noi amiamo viaggiare. Quelli della Rock FM All Star Band più spesso lo hanno fatto in questi anni, perché avevano le loro tournée. Noi invece, chi doveva soltanto fare serate, un po' più raramente. Beh, comunque la cosa forte è che noi chiudiamo il 31 di maggio. Il 31 maggio si chiude la nostra esperienza con Rock FM e si porta avanti, si continua a portare avanti quella che si sta rivelando essere una grande esperienza già adesso, che si chiama Rock Family, ovvero la comunità, chiamiamola così, questa grande famiglia di appassionati di rock and roll, di rock in generale, e che ha seguito questa radio per tanti anni. E vediamo che succede, se dobbiamo inventarci un nuovo progetto per poter stare insieme ancora. Non fosse altro per il rock and roll e per la nostra grande amicizia. Ma tornando al discorso dei viaggi, il 31 si chiude, quindi abbracceremo tutti quelli che verranno a trovarci alle 18 del 31 maggio qui in via Locatelli 1, a angolo via Pisani, piazza Repubblica, vicino alla stazione centrale, così adesso sapete bene come arrivare qui. Ma l'1 di giugno tutta quanta lo staff di Rock FM, e credo non manchi nessuno, forse un paio, forse qualcuno che marcherà visita, non lo so. Comunque ci saremo tutti o quasi tutti alla FLOG di Firenze. Quindi anche il Faurisi naturalmente vorrà finalmente incontrare gli amici di Fiorentini, gli amici toscani, e voglio sperare davvero di incontrarvi tutti, perché chi non avrà modo di venire qua il 31 voglio incontrarlo a Firenze, la FLOG di Firenze, la Rock Family, la band, i DJ set, tutto lo staff di Rock FM sarà lì. Bene, continuano ad arrivare le richieste, vado a cercare una Viva Las Vegas versione di Elvis Presley. Nel frattempo godiamoci un Jerry Lee Lewis con tanto di Jimmy Page al suo fianco. Rock and roll! Oh, that is rock and roll! Well, it's been a long time since I rocked and rolled. Been a long time since I did the stroll. Let me get you back, let me get you back, let me get you back, baby, where I come from. Been a long time, baby, a long time, a long, lonely, lonely, long, long time. Well, it's been a long time since the book of love. Can't count the tears of life with no love. Carry me back, carry me back, carry me back to Louisiana. Lui, il grand'uomo, Last Man Standing. Stiamo parlando di Jerry Lee Lewis, che ha registrato questo album con niente po' di meno che gentaglia che porta nomi tipo Jimmy Page, B.B. King, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Ronnie Wood, Neil Young, Robbie Robertson, John Fogerty, che presto verrà a Milano, Keith Richards, Ringo Starr, Merle Haggard, Kid Rock, Rod Stewart, George Jones, Willie Nelson, Toby Keith, Eric Clapton, Little Richard, Lenny Bramlett, Buddy Guy, Don Henley e Chris Offerson. Proprio trovati per caso all'oratorio. Bene, una delusione per Serena, che mi chiedeva Viva Las Vegas. Ho alle mie spalle non uno ma addirittura due cofanetti di quelli che sono dei must, ma purtroppo viva Las Vegas, incredibile ma vero, nel cofanetto dedicato agli anni 60 di Elvis pare non vi sia. C'è un CD a parte dedicato invece alla musica di Elvis al cinema, ma non l'ho portato con me. Grande delusione, ma fino a un certo punto, perché anche Little Sister niente male, eh. Don't you, little sister, don't you, little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old boy evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned up nose. But you've been a growing and baby it's been showing from your head down to your toe. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Grande Elvis, davvero, davvero, davvero indimenticabile. Sempre, sempre.